Per quanto riguarda i German secondo la carne, secondo il sangue, se è vero che lo spirito dei German non li aveva completamente impregnati, come succede, per esempio, nei cenacoli letterari, dove tutti hanno lo stesso modo di pronunciare, di enunciare e, per conseguenza, di pensare, non si può dire che negli ambienti mondani l'originalità sia più forte e ponga ostacoli all'imitazione. Ma l'imitazione richiede, oltre all'assenza di un'originalità irriducibile, anche una relativa finezza d'orecchio che permetta innanzitutto di cogliere ciò che poi si imiterà. Ora, c'erano alcuni Germant cui tale senso musicale faceva non meno interamente difetto che ai Courvoisier. Se prendiamo come esempio l'esercizio chiamato, in un'altra accezione del termine, fare delle imitazioni, e ribattezzato nel salotto Germant fare delle caricature, Madame de Germant aveva un bel riuscirci a meraviglia. I Courvoisier erano altrettanto incapaci di rendersene conto che se fossero stati un branco di conigli, anziché di uomini e donne, perché non avevano mai notato il difetto o l'accento che la duchessa cercava di contraffare. Quando imitava il duca di Limoges, i Courvoisier protestavano. «Oh no, non parla affatto così, ho pranzato proprio ieri sera con lui da Bebette. Ha parlato con me tutta la sera, non parlava così!» Mentre i Germand, appena un po' più colti, esclamavano «Dio, riande da morire! La cosa più straordinaria è che, mentre lo imita, gli assomiglia. Sembra di ascoltare lui. Orian, per favore, ancora Limoges!» Ora, questi Germand, senza scomodare quelli di primissima categoria che quando la duchessa imitava il duca di Limoges commentavano con ammirazione «Oh, si può ben dire che l'avete centrato!» oppure che l'hai centrato, potevano benissimo, come sosteneva giustamente Madame de Germant, non avere spirito. Ma, a forza di ascoltare e riferire le battute della duchessa, erano arrivati, bene o male, a imitare il suo modo di esprimersi, di giudicare o, come avrebbero detto Swann e la stessa duchessa, di redigere, tanto da presentare, nella loro conversazione, qualcosa che ai Courvoisier sembrava orribilmente similare allo spirito di Orian e che essi trattavano alla stregua dello spirito dei Germant. Poiché questi Germant erano per lei non solo dei parenti, ma degli ammiratori, Orian, che teneva alquanto a distanza il resto della famiglia, vendicandosi ora con il suo disprezzo delle cattiverie che le avevano inflitte in gioventù, andava ogni tanto a trovarli, per lo più accompagnata dal duca quando, nella bella stagione, usciva con lui. Tali visite erano un avvenimento. Alla principessa d'Epinay, che riceveva nel suo grande salotto a pian terreno, il cuore batteva un po' più veloce quando scorgeva da lontano, come i primi bagliori di un incendio inoffensivo o i ricognitori di un'inaspettata invasione, la duchessa intenta ad attraversare lentamente, col suo portamento obliquo, il cortile, esibendo un cappellino incantevole e inclinando un parasole stillante di un sentore d'estate. «Guarda chi si vede! Orian!» diceva la principessa, ed era come un «in guardia» con cui lanciava un cauto avvertimento alle sue visitatrici per dare loro il tempo di uscire ordinatamente, di evacuare senza panico il salotto. Metà delle persone presenti non osavano restare, si alzavano. «Ma no, perché? Rimettetevi a sedere, sarei felice che vi tratteneste ancora un poco», diceva la principessa in tono disinvolto e tranquillo per fare la grandama, ma con voce improvvisamente artificiosa. «Potreste avere qualcosa da dirvi? Davvero avete tanta fretta? E va bene, verrò presto a trovarvi. rispondeva la padrona di casa a quelle che era tanto deliziata di veder sparire. Il duca e la duchessa salutavano con grande cortesia persone che incontravano là da anni senza per questo conoscerle e che a loro volta, per discrezione, li salutavano appena. Subito dopo che se n'erano andate, il duca si informava amabilmente sul loro conto per mostrare di interessarsi alla qualità intrinseca di persone che non riceveva solo per l'ingratitudine del destino o per riguardo verso lo stato nervoso di Oriane, cui la frequentazione delle donne risultava perniciosa. «Chi era quella signora piccola con un cappellino rosa?» «Ma caro cugino, l'avete vista parecchie volte, è la viscontessa di Tours, nata alla Marseille!» «Ma sapete che è graziosa? Ha un'espressione vivace. Se non avesse un piccolo difetto sul labbro superiore, sarebbe francamente incantevole. Se c'è un visconte di Tours, non deve passarsela male. Sapete, Oriane, chi m'hanno fatto pensare le sue sopracciglia e l'attaccatura dei suoi capelli? A vostra cugina Edwige de Ligne!» La duchessa, che soffriva non appena si accennava alla bellezza di un'altra donna, lasciava cadere il discorso. Non aveva però fatto i conti con la mania del marito di far vedere che sapeva tutto delle persone che non riceveva, col che era convinto di apparire più serio di sua moglie. «Ma», riprendeva di colpo con energia, «vi ho sentito fare il nome di la Marseille. Ricordo che quando ero alla camera un discorso veramente notevole fu pronunciato da...» «Era lo zio della giovane donna che avete appena vista!» «Oh, che talento!» «No, no, cara!» si interrompeva il duca rivolto verso la viscontessa de Grémont che Madame de Guermantes non poteva sopportare, ma che, non muovendosi dal salotto della principessa d'Épinay, dove si abbassava volontariamente al ruolo di servetta, salvo quando tornava a casa a prendere a sberle la sua, restava confusa, desolata, ma restava al sopraggiungere della coppia ducale, aiutando a togliere i mantelli, cercando di rendersi utile, proponendo per discrezione di ritirarsi nel salotto attiguo. «Non state a fare il tè per noi, chiacchieriamo tranquillamente, siamo gente semplice noi, gente alla buona. Del resto», aggiungeva rivolgendosi di nuovo a Madame d'Épinay e lasciandola ai Grémont rossa in viso, umile, ambiziosa e zelante, «non abbiamo che un quarto d'ora da dedicarvi». Il quarto d'ora veniva occupato per intero da una specie di mostra dei motti di spirito della duchessa nel corso dell'ultima settimana, motti che lei non avrebbe certo citati se il duca, con grande abilità, fingendo di rimproverarla per gli incidenti che li avevano provocati, non l'avesse spinta come involontariamente a ridirli. La principessa d'Épinay, che voleva bene alla cugina e sapeva quanto le piacessero i complimenti, andava in estasi di fronte al suo cappellino, al suo parasole, al suo spirito. «Parlatele quanto volete della sua toilette», diceva il duca col tono burbero che aveva adottato e che temperava con un malizioso sorriso perché non si prendesse sul serio il suo scontento. «Ma in nome del cielo, non del suo spirito, farei volentieri a meno di una moglie così spiritosa. Probabilmente vi riferite al pessimo gioco di parole che ha fatto su mio fratello Palamed?» aggiungeva, sapendo benissimo che la principessa e il resto della famiglia ignoravano ancora quella battuta e felice di far valere sua moglie. «Tanto per cominciare, trovo indegno d'una persona che ha detto qualche volta, lo ammetto, delle cosette abbastanza graziose, mettersi a fare giochi di parole del genere, tanto più su mio fratello che è molto suscettibile. Se dovesse finire col farmi litigare con lui, ne sarebbe proprio valsa la pena». «Ma noi non ne sappiamo niente! Un gioco di parole di Oriana deve essere delizioso! Ditecelo, ve ne prego! Ma no, ricominciava il duca, ancora imbronciato ma già più sorridente. Meglio così che non ne siate al corrente. Sul serio, voglio molto bene a mio fratello. Abbiate pazienza, Bazin, diceva la duchessa, sentendo che il copione esigeva ormai il suo intervento. Non capisco perché diciate che Palamed potrebbe offendersi. Sapete benissimo che è proprio il contrario. Vostro fratello è troppo intelligente per risentirsi di quello stupido scherzo che non ha niente, assolutamente niente di scortese. Finirete col far credere che io abbia detto chissà quale cattiveria. Invece ho semplicemente risposto in modo tutt'altro che divertente. Ma siete voi a dare importanza alla cosa con la vostra indignazione? Davvero non vi capisco. Ci state facendo venire una curiosità terribile. Di cosa mai si tratta? Oh, niente di grave, naturalmente, esclamava il signor di Guermantes. Forse avete sentito dire che mio fratello voleva regalare Brézé, il castello di sua moglie, a sua sorella Marsant. Sì, ma abbiamo anche saputo che lei non ci teneva affatto, che non le piaceva il posto, che il clima non le si confaceva. Ebbene, qualcuno stava appunto riferendo tutto questo a mia moglie e per di più insinuava che se Palamed voleva regalare quel castello a nostra sorella, non era per farle un piacere, ma per farle un dispetto. E così dispettoso, Charlieu, così tacchin, commentava quel tale. Ora, come sapete, Brézé è un posto da re, può valere parecchi milioni. È un antico possedimento reale, c'è una delle più belle foreste di Francia. Molte persone vorrebbero ricevere dispetti del genere. Insomma, sentendo la parola tacchin applicata a Charlieu per il fatto che regalava un così bel castello, Oriane non ha potuto impedirsi di esclamare involontariamente, ben inteso, senza nessuna cattiveria, perché le è venuto veloce come un lampo. Tacchin? Tacchin? Ma allora è Tacchin il superbo? E recuperando il suo tono burbero, non senza aver lanciato uno sguardo circolare per valutare l'effetto prodotto dalla battuta della moglie, il duca, piuttosto scettico quanto alle cognizioni di storia antica possedute da Madame d'Épinay, aggiunse: «Capite, è per via di Tarquinio il Superbo, il re di Roma. È una sciocchezza, un giochetto di parole indegno di Oriane. E poi io, che sono più circospetto di mia moglie, anche se ho meno spirito, io penso alle conseguenze. Se disgrazia vuole che mio fratello venga a saperlo, sarà un bel pasticcio. Tanto più, precisò, che siccome Palamed è per l'appunto molto altero, molto suscettibile e anche molto incline ai pettegolezzi, castello non castello, bisogna riconoscere che Tacchin il Superbo gli si adatta piuttosto bene. Per fortuna, anche quando decide di abbassarsi a dei volgari pressappoco, Orian resta spiritoso malgrado tutto e coglie discretamente il carattere delle persone. Grazie, così, una volta a Tacchin il Superbo, un'altra volta a un'altra battuta, quelle visite del duca e della duchessa e i loro parenti rinnovavano la provvista degli aneddoti e l'emozione che si avevano suscitata si protraeva ben oltre l'uscita di scena della donna di spirito e del suo impresario. Innanzitutto ci si beava con i privilegiati che avevano preso parte al festino, cioè con gli invitati rimasti sul posto delle battute di Oriane. «Non la sapevate quella di Tacchin il Superbo?» chiedeva la principessa d'Épinay. «Sì», rispondeva arrossendo la marchesa di Baveno. «La principessa di Sarsina la Rochefoucauld me ne aveva parlato». Non esattamente negli stessi termini, ma è stato molto più interessante sentirla raccontare così davanti a mia cugina, aggiungeva, nello stesso tono con cui avrebbe detto sentirla accompagnare al pianoforte dall'autore. Parlavamo dell'ultima battuta di Oriane, che se n'è andata un attimo fa, si diceva a una nuova visitatrice, costernata di non essere venuta un'ora prima. Come? Oriane era qui. Ma sì, se venivate un momento prima, replicava la principessa d'Epinay senza biasimo, ma lasciando intuire tutto ciò che la sciagurata aveva perduto. Era colpa sua se non aveva assistito alla creazione del mondo o all'ultima rappresentazione di Madame Carvaglio. Che ve ne sembra dell'ultima battuta di Oriana? Confesso che mi piace molto. Toquen il superbo! E il motto veniva servito ancora, freddo, l'indomani a colazione, fra intimi che si invitavano appositamente, e ricompariva sotto varie salse nel corso della settimana. La principessa faceva addirittura, in quella settimana, la sua visita annuale alla principessa di Parma, approfittandone per chiedere all'altezza se conoscesse la battuta e raccontandogliela. «Oh, Taken il superbo!» esclamava la principessa di Parma, gli occhi sgranati in un'ammirazione preventiva, ma imploranti un supplemento di spiegazioni, cui la principessa d'Epinay non si sottraeva. «Confesso che Taken il superbo mi piace da impazzire, come redazione!» concludeva la principessa. In realtà, redazione non si adattava per niente a quel gioco di parole, ma la principessa d'Epinay, convinta di aver assimilato lo spirito dei Germain, aveva carpito a Oriane le espressioni redigere, redazione, e le usava senza molto discernimento.